in primo piano. Allora, intanto le aperture. Beh, c'è chi sceglie il calcio con ovviamente il terremoto del calcio che abbiamo sentito anche in GR Sport. Il calcio, per la verità, è l'apertura anche del Sole 24 Ore sui conti. Rosso da 1 miliardo. Calcio, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Ricavi in calo, passivi in salita, in 3 anni perdite record. Dunque il Sole si concentra sui costi che coinvolgono tutte le maggiori squadre italiane con una inchiesta. Il giornale: vogliono uccidere il nostro calcio, scandalo scommesse. Per la verità questa notizia, che è in prima pagina su tutti i giornali, in realtà è superata come titoli di apertura dalla vicenda politica, vale a dire il fatto che la Cassazione ha ammesso i quesiti referendari, quello soprattutto sul nucleare. Sì al referendum sul nucleare, titola in apertura il Corriere. Per la Repubblica: nucleare il referendum si farà. Per la Stampa: nucleare sia il referendum. Nucleare sia il referendum, uguale titolo anche per il Messaggero. Per il Manifesto: sì, sì, sì, ancora. Questo è il titolo. Il Fatto Quotidiano invece mette un enorme sì, questo in apertura. Così anche l'Unità: si vota. Mentre Libero: usano i bimbi contro Silvio, si concentra il quotidiano di Feltri e Belpietro, l'ultima frontiera dell'odio, un corretto di insulti al premier diretto da adulti con poco cervello. Allora, le due segnalazioni da cui voglio partire, la prima la troviamo sulla Stampa, pagina 22, riguarda purtroppo un tragico problema italiano, non solo italiano, quello delle vittime della strada. Reato di omicidio stradale, ritiro a vita della patente. È una proposta di legge che nasce da una famiglia che ha avuto la sfortuna di vivere una tragedia, un figlio di 17 anni, Lorenzo, ucciso da una persona che era, al momento dell'incidente, con un tasso alcolemico oltre il consentito e anche con tracce di cannabis nel sangue. E ha fatto questa famiglia una proposta che tra l'altro è tutta trovabile su internet al sito www.occhioallastrada.it e il cui primo sponsor, diciamo, firmatario è il sindaco di Firenze Matteo Renzi. Questa proposta è quella di inserire per legge nel codice penale il reato di omicidio stradale e anche la proposta per chi compie un incidente del genere, con una tragedia del genere sotto effetto di alcol e droga, di avere il ritiro a vita della patente, cioè senza un'altra possibilità di poter guidare più alcunché. È una proposta che la commissione trasporti presieduta dall'onorevole Valducci sta affrontando. Siamo pronti a questa disponibilità a discutere di questo tema. È un tema che questa iniziativa, che è partita dai genitori, la trovate sulla Stampa pagina 22, che certo può far discutere e può far nascere un dibattito. La seconda segnalazione è l'esame, per l'appunto, che voglio fare in diretta. Paolo Corleoni si era già distratto, ma insomma lo troviamo a pagina 19 sul giornale. Sei meno preparato di uno scolaro. Ecco la prova. Sembra incredibile, tutto nasce da un libro che è anche una trasmissione televisiva, ma un alunno dell'elementare è spesso più bravo di un adulto, un alunno di quinta elementare. Per misurarvi con lui basta rispondere a tutte le domande che a pagina 19 il giornale mette in un'intera pagina. E sono nozioni che in quinta elementare i nostri figli sanno. Per esempio, quante sillabe ci sono nella parola aereo? Le sta contando. Ecco, 3, ha detto Paolo Corleone. Sono 4. È già prima domanda, ovviamente sbagliata. Oppure chi fu, come storia, chi fu il re che ordinò il ratto delle Sabine? Passa. Vabbè, passa. Fu Romolo. E poi scienze, la luce si propaga qua al 50%, la luce si propaga nel vuoto, vero o falso? Non risponde. Dice che è falso e invece è vero, e quindi neanche il 50%. Vabbè, questo è facile visto che è il 2 giugno oggi. Qual è il colore della bandiera italiana più vicino all'asta? Perché non è che si può mettere, e qui dice verde e esulta, giusto, verde, giusto, verde, bianco, rosso. Ho visto delle bandiere italiane esposte all'incontrario, no? Rosso, rosso, bianco, verde. No, il verde va vicino all'asta. Vabbè, insomma, diciamo una domanda su quattro ha risposto con grande entusiasmo. Praticamente sarebbe stato bocciato il nostro Paolo Corleone in quinta elementare. E va bene se dovesse fare l'esame oggi. Il dato di fatto è questo: sei meno preparato di uno scolaro, se vi volete cimentare. Oggi il giornale a pagina 19 pubblica tutte queste serie di domandine. Ce ne sono alcune anche più difficili, alcune più facili. Vabbè, ce ne sono tante: geografia, matematica, scienze, italiano. Quelle di matematica le ho saltate a pie pari, ovviamente. Ci fermiamo per la pubblicità del meteo, poi ripartiamo dalla politica, il referendum sul nucleare, il dopo voto ancora e anche il terremoto, davvero che si profila, un nuovo terremoto nel mondo del calcio. Eccoci qua, alle 7:33 minuti, la notizia politica del giorno che fa più discutere sui giornali è il fatto che la Cassazione abbia deciso di dichiarare ammissibile anche il referendum sul nucleare. Quindi saranno quattro i referendum, rimangono quattro, per cui si voterà il 12 e 13 giugno. Le schede, tra l'altro, dovranno essere ristampate perché il governo aveva deciso una moratoria sul piano energetico nucleare e quindi va cambiato anche la formulazione del quesito. In ogni caso, il sì al referendum, il via libera della Cassazione, titola pagina 5 Il Sole 24 Ore con Antonello Cherchi che spiega perché i referendum resteranno quattro. Non è insomma bastato un decreto legge del governo per fermare il referendum sul nucleare. L'ufficio elettorale della Corte di Cassazione, a cui spettava l'ultima parola, ha dichiarato che anche la consultazione sulle centrali va avanti, seppure spostata su questioni diverse rispetto a quelle contenute dal vecchio quesito, perché essendo intervenuta questo decreto legge, ora va cambiato appunto il quesito. Tra l'altro il ministro dello sviluppo economico Romani si dice totalmente allibito in un'intervista a Repubblica: la decisione della Cassazione è assurda, il quesito referendario ora è paradossale. Non possiamo fare nulla, ma siamo disarmati. Però rivolgo un appello ai referendari, gli chiedo di essere onesti intellettualmente, non prendere in giro i cittadini, perché questo innovativo quesito referendario previsto ora dalla Cassazione non è più sul nucleare, che è stato abrogato dal governo, ma sulle questioni di sicurezza e sulle energie rinnovabili. Mentre ovviamente dall'altra parte esultano, per esempio Di Pietro, intervistato sempre da Repubblica vicino all'intervista al ministro Romani: ora bisogna convincere anche gli elettori di destra, siamo pronti alla piazza unitaria. La linea, quella per esempio del Partito Democratico, è quella di dire: bisogna andare a votare, bisogna votare quattro sì. Tra l'altro, visto che non c'è stata granché di informazione fino a questo momento, per esempio Barbara Spinelli sul Fatto Quotidiano a pagina 3 dice proprio questo: il bavaglio scandaloso, ma gli elettori si sono risvegliati. Ora i giornali che cosa fanno? Iniziano una serie di pagine delle quali si cerca di spiegare anche i quattro quesiti referendari. Ricordiamo, sono: uno sulla privatizzazione dei servizi di fornitura dell'acqua, l'altro sulla determinazione delle tariffe del servizio idrico, il terzo appunto quello sul nucleare, che di fatto era quello in discussione dopo il decreto legge e che è stato salvato sebbene modificato dalla Cassazione, il quarto invece è sul legittimo impedimento. La legge sul legittimo impedimento. Sono quattro schede, quattro referendum sui quali gli italiani dovranno pronunciarsi il 12 e 13 giugno. Tra l'altro si dice stupito di questa decisione della Cassazione un ex presidente della Corte Costituzionale, vale a dire Valerio Onida, il costituzionalista. Onida, intervistato dalla Stampa, dice: sono stupito dalla Cassazione, pensavo che il referendum sul nucleare sarebbe saltato, mi sembrava difficile trasferire il quesito referendario alle nuove disposizioni, mi sembrava che non contenessero granché del contenuto iniziale, ma può darsi che la Cassazione abbia considerato il nuovo testo in frode alla legge. C'è anche un risvolto politico, per esempio il retroscena di Francesco Bei su Repubblica vedrebbe un Berlusconi molto arrabbiato. I sospetti di Berlusconi dalla Corte, una scelta politica, tentano così l'ultima spallata. Anche se la politica si interroga anche su due altri temi. Beh, il primo è quello che del Popolo della Libertà, che certo già è cambiato molto. Ieri la prima svolta molto importante per quel che riguarda il partito, vale a dire la nomina di Angelino Alfano a segretario unico del Popolo della Libertà. Guiderà il partito, per molti analisti politici già una sorta di investitura per il futuro, per il dopo Berlusconi. I tre coordinatori, che sono Bondi, uno si è dimesso per la verità, Bondi stesso, Verdini e La Russa, rimangono ma sotto di lui. Ora ovviamente Angelino Alfano lascerà il Ministero della Giustizia. A questo posto, al suo posto si fanno vari nomi, viene dato per favorito Lupi, ma si fa anche il nome di Elio Vito, secondo altri, anche il nome di Castelli della Lega, che è già stato ministro alla giustizia. Insomma, c'è un'analisi su questo tipo di tema. Tra l'altro, su questo, sulla volontà di cambiare, ci sono, intanto un duro editoriale del Foglio di Giuliano Ferrara. Ai servi liberi e forti, scateniamo una volitiva inconcludente discussione, sarà utile. Un'iniziativa che lancia il Foglio, cioè ritroviamoci in un teatro di Roma per cercare di discutere del perché del disastro di Milano. E sentite poi cosa scrive Ferrara a un certo punto di Berlusconi. Bisogna cambiare qualcosa e nella storia italiana di questi anni non c'è altro qualcosa che il qualcuno, Berlusconi. Girarci intorno è prendersi per il culo. Iddu deve cambiare. Stile, modi, procedure, deve riaversi dal monologo infinito, ripetitivo, deve rimettersi in gioco, rimettere in gioco la creatura politica che dipende da lui e da cui perfino Iddu ormai dipende. 2 anni di governo antifiscale con prudenze greche sono auspicabili, ma nemmeno l'impossibile aliquota IRPEF al 33% risolverebbe il problema. Il problema è lui. Lui è Berlusconi. La sua riluttanza a essere se stesso e non la caricatura che ne fanno i suoi nemici. E questo, dunque, scrive Giuliano Ferrara. La firma, infatti, è quella dell'elefantino inconfondibile sul Foglio. E a proposito di altra scenario politico, c'è sempre la Lega. Intanto la Lega, che in questo momento non si capisce bene che linea terrà sui referendum, anche se la Padania fa notare, cioè scrive a pagina 4 e 5 e ricorda quella frase di Umberto Bossi poco prima dei ballottaggi: il referendum sull'acqua è attraente. E ci sono già dei piccoli endorsement, diciamo, di leghisti magari non di primo piano, come per esempio Maurizio Conte, che è l'assessore regionale veneto all'ambiente della Lega, che dice in un articolo proprio sulla Padania: sulle prime 2 schede, quelle dell'acqua, voterò certamente sì. E insomma, tutti restano a vedere che cosa farà la Lega sul tema referendum, perché il Popolo della Libertà e il centrodestra dice lasceremo libertà di coscienza, l'opposizione di fatto dice andate a votare, votate 4 sì. La Lega, insomma, potrebbe essere l'ago della bilancia. E poi anche questa frase che viene ribadita da tutti i giornali di Umberto Bossi: Silvio è bollito, ma non so se mollarlo adesso. Questa la troviamo un po' su tutti i giornali. Tra l'altro il Corriere mette non solo questa frase, ma anche le ultime, un resumé delle frasi di Umberto Bossi negli ultimi tempi su Berlusconi: ossessionato dai giudici, non è tanto lucido, si intestardisce a parlare di cose che alla gente non interessano per niente, fino al più brutale e ultimo: Silvio è bollito. Inutile insistere, però dobbiamo stare col cavaliere, anche se lo smalto non è più quello di un tempo. Su Libero viene titolato addirittura un'intera pagina, pagina 7, sentenza di Bossi: Silvio è bollito. Insomma, il termometro all'interno della maggioranza certo non rimane molto, non segna molto bel tempo. Tra l'altro Libero fa notare che sempre un altro grande tema è quello delle tensioni all'interno del governo con Tremonti, un Tremonti che sarebbe tentato, secondo Libero, di accettare la richiesta di vice premier, di promozione a vice premier unico. Racconta Francesco De Dominicis a pagina 4, l'idea è questa di prendere i galloni da vice premier, lo stuzzica, tuttavia Giulio Tremonti non si fida, teme anche una troppa esposizione quando dovrà dire ancora che non ci sono soldi. Mentre torna un'altra delle ossessioni di Berlusconi, è tornata, ne ha parlato a livello pubblico, vale a dire alcuni programmi televisivi, Anno Zero su tutti, ma anche Ballarò, programmi inaccettabili, contro di noi la TV, contro di noi i giornali, non accadrà più, faremo in modo in Parlamento, e non si capisce con quale tipo di iniziative, che queste cose non accadano più. Anno Zero e Ballarò sono le trasmissioni maggiormente nel mirino del Premier. C'è poi, per quel che riguarda i giornali, l'altro giallo, ne abbiamo parlato ieri, no? Del fatto che Vittorio Feltri pare stia per ritornare al giornale la settimana prossima. Questo ha creato un terremoto politico. Perché? Perché l'editore di Libero, dove è ora Vittorio Feltri, è Angelucci, Antonio Angelucci, che è anche un parlamentare del Popolo della Libertà. Ed ecco qui come la mette il Corriere a pagina 9. Angelucci è il possibile addio di Feltri, il re delle cliniche tentato di lasciare il PDL. Cioè Angelucci, che è anche l'editore di Libero, oltre che parlamentare, sarebbe arrabbiatissimo, furibondo, lo danno al Corriere, con Silvio Berlusconi. Perché? Perché starebbe cercando di riportargli via Feltri per portarlo al giornale. Lo stesso Feltri, tra l'altro, sentito da il Corriere, dice: "Bah, questa cosa non esiste. Ho appena scritto un pezzo sullo scandalo del calcio", che infatti oggi è pubblicato da Libero. Ecco, affirma Vittorio Feltri. "Sulla questione del giornale, nel nostro mestiere capita di fare due chiacchiere con qualcuno, è una possibilità, ma non esiste nulla di concreto". Insomma, fa litigare la vicenda Feltri, come litigano un pochettino anche Pisapia e Vendola. Pisapia, che ha tirato le orecchie a Vendola per quel comizio, insomma, quel verbo "Milano è spugnata", dovrebbe più ascoltare piuttosto che parlare. Nichi Vendola fa un po' mea culpa in un'intervista a Repubblica e anche nel suo blog. Dice: "Vabbè, ho sbagliato questo verbo, non dovevo dire Milano espugnata, chiedo scusa a Pisapia, dovevo dire liberata, era il termine giusto, ma l'amicizia e la stima di una vita non si incrinano per un verbo sbagliato nell'entusiasmo di una vittoria". Questo dice Nichi Vendola, intervistato da Curzio Maltese su Repubblica. La pagina politica è questa. Oh, io devo dire che bisognerebbe aprire una pagina molto intensa e corposa sul mondo del calcio. Qualcosa facciamo adesso, prima del traffico e poi dopo, perché si potrebbe prendere la Gazzetta dello sport. Calcio infetto, gare truccate, giocatori drogati, falsata B, la Serie B e la Lega Pro. Tra gli arrestati Signori, Beppe Signori, altri 15, indagati anche il capitano dell'Atalanta Doni e Bettarini, ex calciatore, ex marito di Simona Ventura. Insomma, una qualcosa che sta terremotando il mondo del calcio, neanche escluso, anche, anzi certamente domani ne parleremo anche noi, il nostro bianco o nero, perché è una cosa che si profila davvero molto molto seria e molto grave a minare la credibilità del mondo del calcio. Ancora una volta una nuova inchiesta. Ripartiamo dopo il traffico con questa, con la genesi di tutto. Addirittura un portiere della Cremonese, ora quando era nella Cremonese, che è accusato di avere somministrato della droga, del sonnifero per la verità, dei compagni di squadra per cercare di far perdere la propria squadra, la Cremonese. Una vicenda davvero dell'incredibile che è raccontata dal Corriere della Sera, pagina 16, da cui ripartiamo tra poco. Sonnifero nel tè durante la gara, il portiere che drogava i compagni. Nasce da qui questa inchiesta che rischia nuovamente di terremotare il mondo del calcio. Una partita Cremonese-Paganese di serie minore, di Lega Pro, con oggi il direttore generale della Cremonese, Sandro Turotti, che racconta il Corriere. Ricordo benissimo quella partita con almeno 4, 5, 6 giocatori che a fine partita si avvicinavano alla panchina dicendo: "Non stiamo bene, vogliamo il cambio", e noi a dire: "Ma dai, stringi i denti, stiamo vincendo". Cascavano a terra uno dopo l'altro. Perché? Perché l'accusa, un loro compagno, il portiere, aveva sciolto nel tè distribuito negli spogliatoi una scatola di sonnifero. Era questo il tentativo di falsare il risultato della gara, peraltro non riuscito perché la Cremonese vinse 2-0, ma pare che ci fosse una grandi giri di scommesse della criminalità organizzata invece su un pareggio, addirittura una vittoria della Paganese, della squadra che è sicuramente meno forte. A quel punto, racconta il direttore sportivo, il direttore generale della Cremonese, finita la partita addirittura un giocatore, andando a casa, ebbe un incidente perché praticamente si addormentò in macchina. A questo punto facemmo un esame delle urine a tutti gli atleti e fu trovato un sonnifero, il Minias, in tutti, praticamente in tutti gli esami del sangue. A quel punto andammo in procura perché avevamo capito di essere rimasti bersaglio di un atto doloso. Quello che non avevano capito però è che l'accusa ora dice a somministrare quel sonnifero era stato il loro compagno di squadra, il portiere Paoloni, che si scopre essere nei guai con un giro di scommesse. Da lì mettono sotto controllo il telefono del portiere della Cremonese Paoloni. E da lì nasce questo scandalo che ha portato all'arresto, tra l'altro, anche di Beppe Signori, il nome più altisonante. Tutti ora fanno un profilo sui giornali di come sia stata da sempre l'ossessione di Signori, come scrive Repubblica, scommettere su tutto. Che anche quando era giocatore scommetteva, per esempio, con i compagni che nessuno sarebbe stato in grado di mangiare un buondì, la briochina, un buondì in 50 passi, e scommetteva, non so, 10 euro, 50 euro con tutti, e tutti che ci provavano a mangiare questo buondì in 50 passi e tutti che perdevano. E quindi insomma, Signori che scommetteva, racconta Repubblico su tutto, Repubblica su tutto, per tirare freccette sul Roland Garros di Parigi di tennis, sulle prove di motociclismo, spesso punto i pasticcini o una bottiglia, è la sfida che mi attrae, spiegava Beppe Signori in un'intervista. Pare che però questa passione sfrenata per il gioco si sia tramutata poi, almeno a giudicare dall'inchiesta e dalle accuse, in un giro anche molto molto più ampio. Ci sono interviste anche a Paolo Rossi, l'ex campione del mondo, che fu coinvolto in uno scandalo del 1980. Il marcio è inevitabile, scommesse come il doping, non si crederà più al calcio, dice alla stampa. Certo, dice Paolo Rossi, i nostri campionati sono abbastanza veri, ma parliamoci chiaro, certi taciti accordi su match di fine campionato sono sempre esistiti, rispondono all'esigenza di non danneggiarsi, la situazione è diversa quando girano soldi. Trovate anche su tutti i giornali le intercettazioni con le minacce, per esempio a questo ex portiere della Cremonese Paoloni: trova 13.000 euro, fatti ammazzare, vai pure dagli usurai, ma portameli stasera. Questo era il tenore di alcuni ambienti della criminalità che lo minacciavano. Davvero un'altra brutta pagina che coinvolge il calcio. A proposito di calcio, come detto, è l'apertura del Sole 24 Ore, calcio rosso da un miliardo. Il Sole 24 Ore si concentra anche su questa inchiesta a pagina 2, ma a pagina 3 c'è un'analisi, un'inchiesta di quelli che sono i conti bruciati dal mondo del calcio in 3 anni. In 3 anni bruciato un miliardo. Questo è il titolo a pagina 3. Marco Bellinazzo: non naviga in buone acque il calcio italiano S.p.A. La Serie A viaggia da un paio di stagioni con costi superiori ai ricavi per 170-180 milioni, mentre le serie minori se la passano anche peggio. Solo nelle ultime 3 stagioni la A, la B e la Lega Pro hanno macinato perdite per quasi 1 miliardo di euro, per la precisione 947 milioni. I costi e i ricavi, infatti, soprattutto garantiti dalle TV, c'è una dipendenza troppo esagerata, si legge in questa inchiesta, dalla TV, una dipendenza che negli altri paesi, per esempio in Gran Bretagna, che pure ha molti club indebitati, non c'è questa dipendenza. Gran parte del fatturato delle società proviene proprio dai diritti, proventi dai diritti televisivi, ma ci sono talmente tante perdite, e questo poi può creare anche delle situazioni, delle sacche nelle quali la criminalità organizzata si può inserire. Comunque tutti i costi del calcio e le perdite del calcio le trovate analizzate a pagina 3 del Sole 24 Ore. Rimanendo sul Sole 24 Ore, voglio ricordare che cosa? Tutta una pagina dedicata alla cedolare sugli affitti. C'è una nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate con i nuovi elementi, una cedolare secca sugli affitti, la cedolare taglia l'acconto IRPEF, questo è il titolo a pagina 9, è importante perché ci sono novità per quel che riguarda gli affitti e quindi per quel che riguarda milioni di italiani che vi voglio segnalare. Le ultime due cose, o l'ultima, se ce la faccio, in Francia sembra essersi diffuso il morbo del sesso famolo strano nei politici, perché adesso la nuova accusa, dopo Dominique Strauss-Kahn, dopo un altro ministro che si è dimesso perché massaggiava i piedi delle proprie segretarie, Ora veleni nel governo in Francia, sembra si sia rotta una diga. Un filosofo, il filosofo Luc Ferry, in una diretta televisiva ha accusato dicendo: sappiamo tutti che un ex ministro francese era pedofilo. Al che l'intervistatore ha detto: guardi, noi non sappiamo nulla, se ci vuole fare il nome. Al che questo filosofo Luc Ferry è andato nel panico: no, il nome non lo faccio, lo sappiamo tutti, ma se lo faccio passo io dalla parte del torto, mi accusano. Al che si è scatenata la caccia al pedofilo, voglio dire, degli ex ministri. Cioè, sappiamo tutti, questa è la storia, che in una nottata a Marrakesh era stato beccato questo ex ministro a fare un'orgia con dei bambini, con dei ragazzini. Anche se è scatenato tutto un putiferio, tutti si sono concentrati su Jacques Lang, lo storico ministro della cultura di Mitterrand, che ha minacciato ovviamente querele a destra, manca. A un certo punto un giornalista che tiene un blog molto informato ha detto: no, vi assicuro, non è Jacques Lang l'uomo incriminato, ma è l'ex ministro degli esteri Philippe Douste-Blazy. Che in una movimentata serata nella suite dell'hotel La Mamounia di Marrakech nel 2005 fu beccato appunto a fare un'orgia, e quando entrava in Parlamento per settimane in Francia veniva accolto dalle grida dell'opposizione: La Mamounia, La Mamounia, cioè il nome dell'hotel. Chissà, sta di fatto, veleni nel governo, un ex ministro pedofilo in Francia. Ci fermiamo qui con il giornale radio.